versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Buon martedì 30. Buon lunedì. Siamo al 30 di dicembre, ragazzi. Il problema è che io mi devo scusare con voi perché, come sentite dalla mia voce più paperesca del solito, ho anche la febbre, l'influenza e quindi il naso che distorcerà la voce ancora di più. E spero in questo di non molestarvi troppo. In questo 30 di dicembre ci vediamo alla chiusura dell'anno. Uno dei comparti che continua a perdere di più in questo paese in cui tutti sperano nella ripresa è proprio quello dell'auto. Ce ne siamo occupati più volte e più volte Radio 24 torna a occuparsi, perché l'auto era un settore di punta della manifattura italiana. Noi abbiamo un 2013 che si sta chiudendo con un mercato italiano più o meno a meno 7% ancora sull'anno precedente, ma con una quota di mercato che è il 48% rispetto al 2007 pre-crisi. Cioè siamo tornati in realtà a immatricolazioni che sono quelle degli anni 70. Verso metà anno, verso maggio-giugno, si è sperato in una attenuazione di questo calo e che entro fine anno ci fosse un qualche segno più sulle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma però fino ai dati di novembre che abbiamo, alla fine è prevalsa ancora la caduta per effetto di tante cose che vi abbiamo più volte spiegato. Di sicuro il fisco molto pesante per le sue decine di diversi prelievi sull'automobile non aiuta, l'automobile è diventato un bancomat per lo Stato come altri, e a questo naturalmente si è aggiunta la crisi generale del reddito disponibile degli italiani, che ha diminuito la domanda interna, i consumi in generale, e l'auto ne ha continuato a purtroppo pagare un prezzo elevato. La domanda naturalmente è duplice: se nel 2014, speriamo presto, in qualche primo mese del 2014 avremo un segno più al mercato dell'auto italiano, ma realisticamente la domanda da porsi è quanti anni saranno necessari per tornare, mai se sarà possibile, a livelli del mercato comparabili con quelli del 2007, cioè del pre-crisi, visto che siamo a più del 50% inferiore, oppure se siamo un paese che in questa crisi ha sceso dei gradini in via definitiva per il mercato dell'auto. Ecco, questo è lo sfondo, quindi uno sfondo poco positivo, nel quale però, per evitare anche le accuse che tante volte vengono che io sia troppo pessimista, abbiamo deciso di andare un po' al controcorrente, perché abbiamo deciso di oggi intervistare, e lo ringrazio di essere qui, un protagonista del mercato dell'auto in una delle regioni, insomma, di punta, quindi la Lombardia, l'amministratore delegato del gruppo Auto Torino Spa, si chiama Plinio Vanini. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Plinio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ecco, Plinio Vanini ha questa particolarità: in un mercato dell'auto le cui cifre sono quelle che vi ho detto, diciamo molto preoccupanti, per non usare il termine che mi verrebbe, devastanti, loro nel 2012 hanno fatto meglio del 2011, nel 2013 hanno fatto meglio del 2012. E quindi stiamo parlando di un gruppo di autoconcessionari che distribuisce 11 marchi, ha molte sedi nelle province lombarde, ha circa 250 dipendenti. Però il problema a questo punto diventa innanzitutto chiedere a Plinio Vanini in che cosa consiste il segreto del fatto che, mentre il mercato va così giù e, come abbiamo detto tante volte, tanti concessionari hanno chiuso i battenti, si sono trovati esposti con le banche, problemi per la riorganizzazione delle catene, delle filiere commerciali, delle case automobilistiche e così via, molte case automobilistiche che poi dicono: oramai il rapporto diretto lo voglio io col cliente, disintermediando il concessionario, perché per noi diventa un problema anche di efficacia di gestione just in time del nostro prodotto rispetto al tempo di vendita. E invece no, qui c'è una realtà di autoconcessionario forte in Lombardia che va di meglio in meglio. Come mai, Vanini? Ci spieghi un po'. Ma intanto io credo di non avere né la ricetta né tantomeno il deposito della verità. Più né meno credo che un po' il nostro segreto sta nel fatto che da anni abbiamo sempre investito molto sulle tecnologie innovative, parlo di sistemi di gestione del business, e abbiamo sempre investito tantissimo nella formazione dei nostri collaboratori. Questi sono i due punti chiave sui quali abbiamo cercato di impostare all'azienda. È chiaro che in un momento di difficoltà queste strategie hanno portato e stanno portando risultati importanti, perché l'essere dinamici, veloci nel poter prendere le decisioni, avere i numeri just in time sotto mano, ci consentono e ci hanno consentito una gestione del business molto dinamica e molto veloce, ma soprattutto ci hanno consentito di concentrarci e di orientarci sostanzialmente sul cliente, che è l'unico nostro valore importante. Cosa vuol dire però, di fronte al fatto che un cliente è rarefatto, il suo portafoglio è più leggero, in che cosa la tecnologia sostituisce questi due fattori, visto che uno può avere, diciamo, la tecnologia di gestione del cliente più efficace, più rapida, più veloce del mondo, ma in realtà come riesce a fare più fatturato quando in realtà manca fuori la realtà da cui il fatturato si genera? Intanto la tecnologia ti consente di essere snello e quindi di essere competitivo nei prezzi e nei costi. 11 aziende, un solo back office, quindi significa aver ridotto assolutamente all'osso tutti quei costi di burocrazia che stanno dietro le carte, che ovviamente non ti consentono di essere competitivo. Questo è ovviamente un punto cardine. Il secondo punto cardine è l'utilizzo della tecnologia che ti consente di individuare intanto i clienti e soprattutto di poterli gestire in un approccio costruttivo e sostanzialmente di consulenza vera alla mobilità, e non più un approccio che è solo ed esclusivamente finalizzato alla pura vendita di un'automobile e basta, non se ne parla più. Cioè, per noi il conquistare il cliente significa iniziare una relazione. E da questo punto di vista, quindi, chi dice che il futuro è nel rapporto diretto tra case produttrici e il cliente disintermediando vi prende un abbaglio, secondo lei? Ma guardi, sinora è stato dimostrato il contrario, nel senso che gli approcci di distribuzione diretta dalle case verso il cliente hanno portato dei risultati proprio non così lusinghieri, almeno lo dicono i dati e i bilanci delle filiali stesse, insomma. Ma perché io credo che alla fine sono due cose un po' diverse, nel senso che un conto è produrre le automobili e l'altro è venderle e gestire una relazione con i clienti. Sono due cose totalmente diverse, insomma, è abbastanza difficile. È come se noi, o se io concessionario, domani mattina mi dovessi inventare un costruttore di automobili. Non è il mio lavoro e quindi avrei delle grandissime difficoltà. Senta, se uno guarda gli 11 marchi che avete, questo per capire come si fa a interpretare con successo un mercato che ha volumi così più compressi rispetto agli anni alle vostre spalle, voi ci avete in realtà una filiera che integra tutto, perché si va ovviamente da Hyundai, Kia, quindi stiamo parlando di Corea specializzata nei segmenti bassi e di ottimizzazione dei costi, fino su salendo ovviamente a BMW, Mercedes, ci avete marchi intermedi e così via. Che cos'è? È un'idea che bisogna proporre un'integrazione totale della filiera dei segmenti per guadagnare, siccome si guadagna col margine molto più nella parte alta ovviamente dei segmenti nel mercato. Bisogna avere tutti o comunque un'offerta integrata per non puntare troppo su segmenti che poi sono i più penalizzati nell'andamento cattivo del mercato, così funziona? Beh, intanto ovviamente è come quando, se qualcuno acquista delle azioni di borsa, insomma, se acquista le azioni di una sola azienda è molto più a rischio rispetto che distribuire un po' il proprio portafoglio, ma questo è un rischio imprenditoriale. Io credo che la possibilità di intraprendere una relazione con il cliente significa proprio accompagnare il cliente in un percorso automobilistico ed essere in grado, però con una grande specializzazione di brand, di dare un'offerta in funzione dell'esigenza del cliente in quel momento particolare della sua vita e della sua esistenza. Quindi il passare da un marchio all'altro non credo sia proprio il termine corretto, ma per quanto ci riguarda l'obiettivo nostro è avere un cliente che prima di tutto viene in Autotorino a acquistare un'automobile. Per noi questo è assolutamente un valore importante, un valore sul quale abbiamo cercato veramente di lavorare. Cioè, lei dice, vengono da voi a prescindere dal fatto di avere già le idee chiare su quale sia il marchio su cui andrà la loro scelta, vengono da voi perché nel tempo si fidano di quello che dite voi e pronti anche a cambiare idea? No, si fidano, diciamo che certo i clienti stanno testimoniando questo, molti clienti ovviamente arrivano con idee già ben chiare e molti clienti arrivano con idee che non sono sempre così chiare. Diciamo che la nostra forza è però quella di dare grande specializzazione su ogni brand, cioè il nostro personale lavora dedicatamente sui singoli marchi, quindi questo consente ovviamente una grande specializzazione e la possibilità chiaramente di dare risposte adeguate e competenti in funzione delle esigenze del cliente. Una delle grandi fatiche dal punto di vista patrimoniale per i gruppi automobilistici che più hanno risentito, insomma Fiat, non solo Fiat, della crisi in questi anni, era il peso finanziario che la gestione diretta delle agevolazioni finanziarie al compratore comportava nei bilanci patrimoniali delle grandi aziende automobilistiche, e questo è stato uno dei fattori che ha pesato di più nel fatto che alcune catene, penso Peugeot PSA, ricorso allo Stato, adesso hanno un accordo con i cinesi di Dongfeng, General Motors si è tirata indietro rispetto al capitale di PSA. Ma ecco, rispetto a questo, voi vi siete messi nel tempo in condizioni anche di poter dare agevolazioni finanziarie dirette come concessionario rispetto a quelle che sono già offerte dalle case automobilistiche se un cliente viene da voi? Ma noi abbiamo accordi quadro sia con le captive delle case che con altre captive, quindi cerchiamo di studiare un prodotto autotorino e studiamo prodotti finanziari che cambiano proprio ormai di settimana in settimana in funzione anche delle esigenze dei clienti, perché io credo che bisogna provare a pensarlo un po' al contrario, nel senso che c'è da capire quali sono le esigenze del cliente e poi costruirci un prodotto sopra, perché se noi pensiamo di imporre un prodotto e poi far sì che il cliente va bene, io credo che di questi tempi si faccia una politica che non vinca. Allora, spiegate i punti di forza di Autotorino. La seconda parte, adesso abbiamo l'interruzione sull'informazione stradale, la facciamo invece un po' più, allarghiamo l'orizzonte, i problemi del sistema, dei concessionari, dell'auto nel nostro paese, per come è possibile immaginarli in questo disastro. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta a 16:46, primi 57 secondi. Avete visto sicuramente, o ascoltato nei telegiornali ieri sera, o visto sui giornali stamattina, le dichiarazioni a proposito di pressione fiscale del premier Enrico Letta, che facendosi forte di un'estrapolazione fatta dalla CGIL di Mestre, di Bortolussi, spesso ai nostri microfoni, che evidenziava come nel 2013 per alcuni tipi di lavoratori dipendenti a basso reddito gli sgravi fiscali sono stati tali da diminuire la pressione fiscale nel 2013 sul 2012, ma ripeto, solo per alcune tipologie di lavoratori dipendenti a basso reddito. E Letta ci è saltato sopra e ha detto bene, ma anche nel 2014 procederemo come nel 2013 alla diminuzione della pressione fiscale. Allora esorterei tutti voi in ascolto a renderci attenti ai numeri. La pressione fiscale nel 2012 era passata al 42,5% del PIL rispetto al 41 scarso dell'anno prima. Nel 2013 sarà ancora maggiore per via della diminuzione ulteriore del PIL rispetto al 2012, quindi non c'è alcuna diminuzione della pressione fiscale, tantomeno da continuare nel 2014, perché se si continua qualche cosa è solo la crescita della pressione fiscale complessiva. Questo non significa affatto che non vi siano poi nei decili di reddito più basse delle forme di redistribuzione per cui c'è chi paga qualche cosa di meno, ma complessivamente lo Stato incassa di più, la pressione fiscale sta continuando a crescere. Perché diciamo questo? Perché di sicuro il bancomat auto è una delle ragioni fondamentali della crisi del mercato dell'auto nel nostro paese. Nella sua esperienza, Pignonini, c'è da sperare in qualche cambio di marcia sulle tante forme di pressione fiscale che riguardano l'automobile? Non stiamo parlando solo dell'accisa carburanti. Tra l'altro, vi state rendendo conto che il mille proroghe approvato nottetempo, dopo che il capo dello Stato li aveva bloccati sul decreto salva Roma per eterogeneità delle misure, l'hanno approvato e lo stanno di nuovo smontando, non ne stanno dando testa, perché si sono resi conto che anche il mille proroghe ricade negli stessi difetti sanzionati dal Quirinale. Una di queste è esattamente la diminuzione delle aliquote dell'accisa sul tabacco e carburanti rispetto all'aumento intercorso dell'aliquota IVA, perché l'effetto è quello, ovviamente, con l'aumento della pressione fiscale, che diminuisce il consumo di sigarette e anche naturalmente l'utilizzo di carburanti, e il gettito diminuisce. Uno Stato costretto all'indecisione, ma io ho alzato l'IVA, adesso di quanto devo per pareggiare e non far diminuire il gettito, diminuire l'accisa, è uno Stato ben lungi da come l'ha descritto Letta, cioè che si è trionfalmente inoltrato nella diminuzione della pressione fiscale. Domanda a Pino Vanini, l'amministratore delegato del gruppo Auto Torino SPA. Lei si aspetta un qualche cambio di marcia rispetto a una delle tante imposizioni sull'auto oppure no? Ma guardi, se devo dire quello che è nel libro dei miei sogni, io ritengo che per far ripartire il mercato dell'auto bisogna adottare il sistema, o il sistema americano o il sistema tedesco, dove sostanzialmente intanto le aziende possono mettere a costi e dedurre fiscalmente i costi e gli investimenti sull'automobile. Questo non, cioè, chi acquista una macchina la deve poter dedurre, e questo è un po' il sogno. Io vedo costantemente delle grandi orecchie da mercante, nel senso che è il gatto che si morde la coda, cioè continuiamo a prelevare, continuiamo ad imporre pressione e poi alla fine continuiamo comunque nel mercato globale a far vendere di meno e ad incassare di meno. Cioè io non riesco a capire manco il fatto che qua non si riesce più a fare nemmeno 2+2, perché i conti sono abbastanza semplici. Nel momento in cui tu vuoi far ripartire il mercato dell'auto, non fai quello che stai facendo. Nel momento in cui vuoi incassare intanto dell'IVA sana, non l'aumento ma dell'IVA vera, dell'IVA su un consumo, il consumo devi far sì che possa avvenire, perché se lo impedisci, esatto. Che possa. Senta, noi abbiamo avvenire. Un ascoltatore che secondo me deve essere della filiera o del settore, che è un po' arrabbiato e osserva, io glielo leggo perché secondo me è una buona domanda a cui fuori dai denti bisogna rispondere, come la domanda stessa è fuori dai denti. Dice: santo cielo, ma insomma questa azienda è cresciuta perché tanti piccoli concessionari hanno chiuso, loro sono stati per carità bravissimi a resistere perché è un'azienda grande, ma questa cosa sottolinea semplicemente che cosa è la crisi drammatica in cui siamo, nella quale chi non aveva la forza che loro hanno costruito negli anni precedenti, di centinaia di dipendenti, di tanti marchi inglobati e in una dozzina di rappresentanze di diverse province lombarde, la forza di resistere non ce l'aveva, poi per forza chi resiste, a quel punto porta a casa anche gli affari di chi ha chiuso. È fondata questa lettura oppure no, Plinio? Ma guardi, io su questo sono assolutamente d'accordo, nel senso che il mercato che va alla metà è ovvio che tutti non ci stiamo più. Vorrei aggiungere una cosa, che i bilanci dei concessionari già nel 2008 erano in condizioni pesantissime e drammatiche, cioè già quando c'era un mercato di 2 milioni di automobili. Per tutta una serie di forzature di mercato che di fatto consentivano di fare dei volumi, ma non portavano, non dico reddito alle aziende, ma margine di contribuzione attraverso il quale potessero perlomeno le aziende arrivare a break even. Facciamo un esempio concreto: il giochetto per il quale negli ultimi 3 giorni di fine mese c'era la grande cosa dei chilometri zero per far fare i volumi, far registrare i volumi come venduto alle aziende produttrici, ecco, quello è finito oppure c'è ancora? No, ma è un giochetto che a seconda i mesi, a secondo le esigenze, a volte c'è e a volte non c'è. È un giochetto che a mio parere è chiaro nel medio periodo porta poco, è un grande vantaggio per il consumatore, perché di fatto quando ci sono logiche attraverso le quali si cerca la quota, poi la quota qualcuno dice che la si compra, basta avere i soldi per farlo, insomma. Lei dice? No, qualcuno lo dice, non lo dice lei. Ah no, lo dice qualcuno, non lo dico solo io, nel senso che bisogna tornare a capire questo, che se vogliamo impostare delle basi di mercato sano, ma oggi il mercato è abbastanza sano, nel senso che comunque le aziende hanno difficoltà finanziarie anche a seguire certi percorsi, quindi cosa vuole? Io credo che di fatto ci sta comunque anche un ragionamento imprenditoriale che vorrei però fare un po' riemergere, nel senso che a volte gli interessi di una casa non sono sempre gli interessi del concessionario, nel senso che il concessionario, un'impresa comunque grande che sia, sempre di dimensioni abbastanza ridotte, ha degli interessi di medio periodo, l'interesse di una casa spesso e volentieri l'interesse di breve, quindi c'è la dubbio. Necessità di far fatturato e volumi nel breve. Senta, lei quanto tempo si dà rispetto al mercato, non al bilancio della sua azienda, che abbiamo visto va bene, ma cosa si aspetta nei prossimi 2 anni verosimilmente sul mercato italiano complessivo? Di quanto risaliamo rispetto a questo 50% che ci manca realisticamente secondo lei? Ma guardi, io forse non sono nemmeno la persona adatta a fare tutte queste previsioni, e quindi la mia è semplicemente una previsione imprenditoriale che sta un po' nel buon senso e nel naso dell'imprenditore, non voglio dire nient'altro. Per me il mercato sarà ancora più o meno questo, quindi io non voglio dire che aumenta di piccole percentuali o diminuirà di altre piccole percentuali, però in un paese dove allo stato attuale non ci sono le premesse di una crescita, perché io a questo volevo arrivare, perché è chiaro che il mercato complessivo con questi tassi di caduta, c'è un problema generale che dipende dalla perdita del PIL pro capite più elevato, diciamo, tra i paesi grandi europei. Questa roba non si ricostituisce nel breve, quindi diciamocelo fuori dai denti, per quello che può immaginare lei con tutti i caveat che ha fatto bene a ripetere, però non è che possiamo immaginare che noi torniamo a quel 50% in tempi ragionevoli, perché di mezzo c'è il PIL pro capite, il reddito pro capite che abbiamo perso. È corretto o no? Ma è assolutamente corretto. Vorrei però aggiungere anche un'altra cosa, ci hanno tolto la voglia e la gioia anche di possedere l'automobile. Cioè nel momento in cui possedere un'automobile è in qualche modo un punto di additamento da parte dello Stato. Ah, tu hai l'automobile, tu hai un'automobile che ha... Cioè si riferisce alla tassa sulla cilindrata, si riferisce agli accertamenti della Guardia di Finanza per tipo di veicolo e così via. Mi riferisco esattamente a tutte queste cose che tolgono la voglia, quindi il mercato di fatto diventa un mercato di sostituzione, cioè cambio l'automobile perché sono costretto, nel senso che ha una quantità di chilometri tale per cui devo cambiarla, però il mercato è di sostituzione. Cioè questo paese, noi italiani abbiamo la necessità di tornare ancora ad avere un po' la voglia di vivere, non so come spiegare. No, questo è chiaro, attenzione che naturalmente stiamo suscitando la reazione di chi dice però era anche giusto un cambio culturale rispetto all'automobile come spreco, come pura gioia di vivere. Naturalmente la verità sta un po' nel mezzo. Senta, quanto vede tra i suoi clienti contare e pesare una forma di alimentazione energetica dei motori più sensibile, e quanto questo conta, anche quando conta di più nel prezzo ovviamente del veicolo? C'è davvero una maggiore sensibilità o è sempre semplicemente in punta di convenienza? Ma intanto c'è una grande sensibilità e una grande attenzione a tutto quel che riguarda energia innovativa, quindi parlo di elettrico, ibrido e quant'altro, perché per fortuna cominciamo ad essere più sensibili all'ambiente e più sensibili ai luoghi in cui viviamo, e questo credo sia un valore positivo che sta venendo avanti. Io credo che la rivoluzione elettrica non ci sarà. Ecco. Non ci sarà a breve, non ci sarà perché comunque le fabbriche non dispongono ancora di tecnologie che consentano comunque di avere batterie. Esatto, la cui efficienza e anche il costo comparato rispetto poi all'energia che si è necessario per produrre tutto questo, per poi restituire un'alimentazione. Allora, grazie. Con questa, come avete visto, non è un granché ottimista neanche Piovanini, anche se i suoi bilanci vanno bene. Continuate con Radio 24. Noi domani abbiamo un bilancio di fine anno con un ospite straordinario. A domani.